Gemini Network nasce da più di un anno di relazioni tra alcune web radio indipendenti afferenti a spazi sociali ben consolidati lungo tutto il territorio nazionale. E si parla di Radio Sherwood di Padova, Radio Sonar di Roma, l'Autoradio di Perugia, Radio Roar di Pisa, Radio Ciroma, Radio Città Aperta e Radio No Borders di Milano. L'idea che maturiamo da diversi mesi è quella di proseguire il percorso avviato da Corrado Gemini, un attivista molto attento ai temi del copyleft e della libera circolazione dei saperi, che da anni lavorava a un network come quello che stiamo cercando di costruire. Purtroppo è prematuramente scomparso, ecco perché Gemini Network. L'idea è quella di creare una piattaforma che riesca a dare voce a territori che già fra di loro si conoscono e hanno buone relazioni e possono da anni condividere appunto il racconto di vertenze, esperienze sociali e culturali, ma soprattutto andare a raccogliere le voci di tutte quelle esperienze appunto di produzioni culturali, sociali e quant'altro che per tante ragioni non trovano un canale di espressione. Abbiamo perciò lanciato un'assemblea in streaming pubblica questo sabato, cioè domani, per allargare a chiunque voglia partecipare e mettersi in gioco questa piattaforma. O chiaramente l'idea di produrre contenuti audio, in questo caso, quindi l'idea di podcast, in piena pandemia ha conosciuto un'espansione particolare sia per quanto riguarda il mainstream sia per quanto riguarda podcast autoprodotti da realtà diffuse appunto in tutto il mondo. Ci sembra quindi importante raccogliere questa espansione del medium, attraversarla, farla nostra e utilizzarla appunto come strumento collettivo a favore appunto dei territori e delle esperienze sociali e culturali meno rappresentate. Prima, durante e oltre la pandemia, recuperare il concetto di cooperare appunto in rete per produrre dei contenuti che siano espressione di mondi che al momento per varie ragioni ci sfuggono. Questa è un po' l'idea. Siano realtà organizzate, siano singoli content creator che sentono il bisogno ora più di prima di prendere parola. In questo progetto si ritrova un po' anche una risposta, come introducevi tu, anche alla situazione di isolamento che stiamo vivendo adesso e che si prospetta anche nel futuro, ma anche una risposta a problematiche che c'erano già prima del coronavirus a livello economico e di chiusura e di difficoltà, diciamo, alla resistenza delle radio indipendenti. Questo assolutamente, infatti crediamo che la possibilità di cooperare e di fare networking nel pieno rispetto dell'indipendenza di ciascuna realtà e di ciascun singolo che si vorrà unire possa proprio rappresentare un elemento di ulteriore forza nei confronti dell'ampio dibattito e anche della lotta che spesse volte si è aperta nei confronti di chi detiene il monopolio del diritto d'autore nel nostro paese, anche a fronte di alcune piccole brecce che si sono aperte negli ultimi anni con la liberalizzazione del mercato stesso. Crediamo che questa idea di networking che abbiamo cercato di recuperare sia dalla nostra storia politica e sociale pregressa, sia appunto che possiamo raccogliere da questo bisogno, no, di sentirsi uniti a dispetto del distanziamento sociale che è stato imposto, appunto crediamo che da questo si debba andare avanti, che si debba conservare quantomeno questo spirito per poi appunto metterlo al servizio di una piattaforma che sappia essere cross-mediale in questo senso e che quindi riesca a unire a partire da un posizionamento ben preciso, ma che sappia anche essere aperta, eterogenea, più plurale possibile per raccogliere più voci possibili. Perfetto, io ti ringrazio, ti chiederei solo ancora di ricordarci sia l'appuntamento per l'assemblea pubblica e magari se avete già un programma di come andrà anche avanti il progetto nelle prossime settimane e poi se avete dei canali di riferimento su cui si può cercarvi. Siete tutte e tutti invitati all'assemblea pubblica di sabato 16 maggio, dunque domani alle ore 18, che sarà trasmessa sulla pagina di Gemini Network, che trovate su Facebook e su Instagram. Proprio in questi minuti stiamo diffondendo le modalità di partecipazione all'assemblea, affinché tutti possano unirsi. E da domani, quando si concluderà l'assemblea, la versione beta della nostra piattaforma sarà operativa. Potete trovare i player di tutte le realtà che finora, come dire, costituiscono il nucleo fondatore, e via via procederemo nell'allargamento fino all'obiettivo più ambizioso che coltiviamo, che è quello proprio di una redazione diffusa su tutto il territorio nazionale e chissà anche oltre.